l'Iraq e Baghdad in particolare stanno subendo in questi giorni, anzi addirittura in queste ore, una sorta di nuova invasione, non nulla di strettamente militare, bensì una cinquantina, 60, 70, forse di più, una sorta di piccolo esercito di procuratori, giuristi, avvocati del governo che nelle intenzioni di Washington dovranno aiutare gli iracheni a preparare una nuova Norimberga, ovvero la Norimberga di Saddam Hussein. Sul banco degli imputati del processo che si annuncia come uno dei più famosi, importanti e mediatici del mondo, ci dovrà essere proprio lui, il reis iracheno. I procuratori hanno raggiunto Baghdad insieme a tonnellate di documenti. Del resto gli americani, non avendo trovato traccia alcuna delle armi di distruzione di massa, devono in qualche modo, proprio in questo anno, anno elettorale, comunicare al mondo che la guerra era non solo giustificata, ma addirittura necessaria. Questo approccio un po' muscolare e giuridico trova comunque delle perplessità. Salam Chalabi, che è l'avvocato iracheno, laureato a Yale e guida la preparazione dei processi a Saddam, ha rivelato al New York Times che nessuno dovrebbe in qualche modo ostacolare il nostro lavoro, almeno il processo a Saddam vorremmo che fosse fatto e messo in piedi da noi iracheni. Molti osservatori sono su questa lunghezza d'onda, ma l'amministrazione Bush è irremovibile, non c'è niente da fare, non solo saremo noi a processare Saddam, sì, certo, anche insieme agli iracheni, ma su nostra documentazione, con i nostri avvocati, con i nostri giuristi e con le nostre accuse. Come dice appunto il New York Times in fondo al suo articolo, questa volta l'occupazione veramente sarà un'arma letale. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.